in primo piano. Giovedì 7 ottobre. Le aperture sono tutte dedicate più o meno alla politica. Il federalismo fiscale accelera, questa è l'apertura del Sole 24 Ore. Solo le regioni che riducono l'IRAP potranno aumentare l'IRPEF. Mentre sulla politica, Berlusconi allontana il voto per il Corriere. No al voto, temo il governo tecnico per Repubblica. Berlusconi, niente elezioni. Anche per la stampa. Sul Messaggero, Berlusconi, un guaio, il voto ora. E insomma, diciamo... Abbiamo scherzato, ma vedremo la politica che Passi ha fatto ieri. Per la verità, molti giornali hanno aperto con la cosiddetta ribattuta. La ribattuta è quando si riapre la prima pagina dei giornali perché arriva una notizia nella sera. E in questo caso la notizia è arrivata drammatica, è arrivata tra l'altro in diretta TV. Riguarda Sara Scazzi, 15enne, scomparsa dal 26 agosto nelle campagne di Taranto. Lo zio ha confessato. È stato lo zio a ucciderla e a dire cercatela, e il cadavere poi è stato trovato nella notte in un pozzo. Ora sui giornali ci sono pochi particolari. Io il giorno che evidentemente è arrivato con la ribattuta, Sara uccisa, ma tutti i giornali hanno almeno qualche articolo: Sara è morta, cercatela lì. Su Repubblica, anche se l'aspetto più inquietante di tutto questo, c'era chi l'ha visto ieri in onda e c'era la madre di Sara Scazzi lì in diretta, e le hanno detto la notizia in diretta: guardi signora, c'è una notizia battuta dalle agenzie che dicono che forse sua figlia è morta. E la madre, io non l'ho vista la trasmissione, ma per esempio oggi racconta Antonio San Francesco su Libero, la madre in diretta TV non commenta, muta, sta lì. A un certo punto gli arriva addirittura una chiamata sul cellulare. Sul cellulare lasciato acceso durante la trasmissione è il comandante dei carabinieri di Avetrana che le dice: signora, poi la conversazione pare sia disturbata, ma la madre mette giù e dice: pare abbiano trovato un corpo. Tutto in diretta TV. Sara è morta, anzi no. La madre è in diretta TV. Questo è il titolo della cronaca surreale, irreale nella tragedia di Libero. Chi l'ha visto, shock, prima l'annuncio, poi la smentita. No, forse non è morta, si sta ancora cercando il cadavere. Poi alla fine, quando i riflettori si sono spenti, la verità è venuta fuori. Ma sapete che a me ogni tanto piace dare il premio Camomilla colazione. Io non so che cosa dovrei dare a questo professore che proprio un paio di giorni dopo che Ciarrapico ha fatto le sue sparate, e poi chiedendo scusa in Parlamento sulla kippà, gli ebrei, Fini, e beh, oggi viene fuori su Repubblica questa vicenda. Il professore dell'università che nega le camere a gas. Marco Pasqua ne parla da Teramo. La vicenda, per la verità, risale a un mese fa. Il protagonista è Claudio Moffa, professore ordinario presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Teramo. È uno storico che io credo, temo, di avere anche invitato in passato. Claudio Moffa ha fatto una lezione, il video è pubblicato sulle pagine web del docente, dunque tutto controllabile. Parlava della Shoah. È uno che è vicino a posizioni negazioniste, aveva invitato in passato anche Robert Faurisson, un negazionista, che l'aveva invitato poi in Italia, poi c'erano state polemiche, dunque la sua lezione era stata sospesa. Il tema tabù del mondo accademico, la questione della Shoah, della difesa del suo dogma da parte dell'Inquisizione del terzo millennio. Questo è il titolo sul quale il dotto Claudio Moffa si è prodotto. Ovviamente, che cosa sono le tesi? La contestazione dell'uso del Zyklon B, cioè il gas per uccidere gli ebrei. L'edificio mostrato ad Auschwitz è un edificio che non ha nessuna delle caratteristiche tecniche atte ad essere stato una camera gas. Questo è il professor Moffa. E poi, si nega il dato di 6 milioni di ebrei sterminati, un numero con una valenza cabalistica. Non si capisce perché lo si debba sempre ripetere, una cifra ormai ampiamente messa in discussione. E poi, commentando ciò che ha detto un altro professore esimio, Roberto Valvo, del liceo di Via Ripetta, che era stato accusato di aver detto la Shoah è stata una montatura, ecco cosa ha detto Claudio Moffa: come ai tempi dell'Inquisizione non è concepibile chi, argomentando o comunque parlando al bar o facendo una battuta in un consiglio di classe, dice non credo a questa cosa, e così viene sanzionato. Ma sì, parliamone come al bar dell'Olocausto, facciamo una battuta. Prima di parlare della politica, detto che appunto sui giornali non trovate molto, anche se trovate qualche titolo sulla notizia, certo arrivata nella notte, notizia importante di cronaca, vale a dire ormai si è risolto e purtroppo in maniera brutale la scomparsa, il giallo della scomparsa di Sara Scazzi, scomparsa il 26 agosto ad Avetrana, perché è stata uccisa ed è stato lo zio che avrebbe confessato, ha confessato nella notte e ha detto agli inquirenti: andate a cercare il corpo là, in un pozzo. Io vorrei partire dai tanti articoli che trovate sull'ennesimo attacco che c'è stato a colpi di uova, vernice, anche fumogeni contro la sede, in questo caso sede nazionale del sindacato CISL. Tra l'altro vi voglio ricordare che alle 8:20 nell'intervista sarà nostro ospite Raffaele Bonanni, il segretario della CISL. Uova, vernice, fumogeni contro la CISL, serie di blitz, colpita anche la sede, col ministro Sacconi che dice: sono compiuti questi attacchi da bestie, un atto vile e abietto di terrorismo. Sono tantissime le interviste, i commenti che trovate, perché ovviamente tutto questo è sintomo di una tensione sociale che cresce, che ha portato a un l'ultimo di una serie di episodi. Ricordiamo che anche Bonanni è stato attaccato con un fumogeno alla festa del PD a Torino. Epifani su Repubblica fa un'intervista: siamo pronti a punire chi sbaglia, ma non prendiamo lezioni. Le sedi sindacali rappresentano per i lavoratori un simbolo, dice il leader della CGIL, una tutela, un'idea di protezione e democrazia. Qualsiasi intimidazione o violenza è inaccettabile. A chi chiede sanzioni dico: state tranquilli che la CGIL è una grande organizzazione democratica e se ci sono persone che appartengono al nostro sindacato che hanno sbagliato, pagheranno anche con l'espulsione. Poi però Epifani dice: basta usare toni da ritorno degli anni 70, bisogna invitare tutti, anche i ministri, ad abbassare i toni. Il Riformista invece titola: siamo tutti cislini. Questo è il titolo di apertura di prima pagina del Riformista. Altri due attacchi alle sedi del sindacato di Bonanni. La sede principale è quella di Roma, ma c'è stato anche un episodio a Merate, in provincia di Lecco, in Lombardia, dove racconta La Stampa: in Lombardia assalto alla sede della FIM, dunque metalmeccanici, sempre tra scontri o comunque tensioni tra sindacati, FIOM contro FIM, sindacato contro sindacato. Così inizia il resoconto della cronaca di Fabio Poletti, anche se su questo c'è un giallo. Per esempio sul Manifesto la versione è completamente diversa, Manifesto che per la verità apre su un altro tema, vale a dire la decisione di mandare l'esercito a Reggio Calabria dopo le tensioni legate all''Ndrangheta. C'è una foto dell'esercito con il titolo Ordine Reggio. Ma a pagina 2 e 3 in realtà l'apertura all'interno è dedicata proprio alla vicenda della CISL. Un fumogeno ci seppellirà? Questo è il titolo della cronaca. C'è un'intervista anche a Mirko Rota, che è responsabile lombardo della FIOM, che dice: ma che attacco a Merate? C'erano 4 dei nostri iscritti alla FIOM, erano lì, sono andati a consegnare dei volantini, c'era anche la polizia, non c'è stato nessun assalto, diamoci tutti una calmata. E infatti anche a pagina 3 intervistato è il leader della FIOM, Maurizio Landini, che dice: se il ministro degli interni parla al Corriere dei rischi che si anniderebbero intorno alle manifestazioni sindacali, mi preoccupo. È un brutto clima che rimanda ai momenti bui che hanno segnato la storia del nostro paese. Questa è una ragione in più per rendere più centrale il tema della democrazia nella manifestazione del 16, il 16 ottobre. E poi Landini respinge le critiche e dice: tentano di far passare ogni espressione di critica e del conflitto per atti antidemocratici. Ma con che coraggio si persegue questa strada, e persegue questa strada proprio chi impedisce la pratica della democrazia nei posti di lavoro? Insomma, le versioni, come vedete, sono contrapposte. Sul Corriere della Sera c'è un'intervista a Pier Carniti, che è stato segretario della CISL dal 79 all'85, dunque ha vissuto anni certamente di maggiore tensione. Negli anni 80 rifiutai la scorta, ma che tristezza rivedere quel clima. Parla con Enrico Marro, pagina 3 del Corriere della Sera. Subito chiede: ma la camionetta davanti alla sede della CISL non c'è più? No. Ormai sono anni che non c'è. È deplorevole, dice Carniti. Spero che da domani la rimettano. Allora non fui io a volerla, le cose andarono così, ci fu una risoluzione delle Brigate Rosse dove dicevano che volevano farmi fuori, allora il ministro degli interni, vale a dire Virginio Rognoni, mi chiamò per darmi la scorta. Io rifiutai, ci fu un tira e molla, alla fine misero una camionetta della polizia fuori dalla CISL e un'altra fuori casa mia. E Pier Carniti parla della situazione di quegli anni, insomma, sempre del possibile ritorno, del possibile confronto. Raffaele Bonanni fa anche un'intervista ad Avvenire a pagina 4, parla di cultura squadrista e invita la FIOM a fermarsi, e l'accusa, dire, nasce dal fatto, questo clima, che da mesi e mesi ci sono stolti e ci sono furbi che hanno lanciato questo messaggio, che fare accordi come quello che abbiamo fatto alla Fiat di Pomigliano significhi distruggere i diritti e violare la Costituzione. Bugie pagliacciate. E da qui, insomma, dice Bonanni, è nato questo clima, ma lo sentiremo alle 8:20 in un commento, in una pagina dei commenti, pagina 16 del Sole 24 Ore. Il titolo è Spegnere il clima d'odio. Uova, fumogeni, vernice contro la sede nazionale della CISL, un'irruzione di iscritti alla FIOM, alla CISL di Merate. La lista di intimidazioni, come altro definirle, sta diventando un rosario. Fumogeni lanciati al segretario della CISL Bonanni alla festa del PD a Torino, le intemperanze contro il professor Ichino a Milano, lanci di uova e pietre contro Confindustria e la CISL di Livorno, l'assedio di un gruppo di avversari sindacali alla CISL di Treviglio. Un clima di odio insopportabile e molto pericoloso. Solidarizzare con le vittime, condannare gli atti è sacrosanto. Alzare la guardia e neutralizzare i facinorosi prima che succeda l'irreparabile è improcrastinabile. Vabbè, il tema è molto, molto delicato, molto interessante. Certo, c'è questo escalation di tensione che è sotto gli occhi di tutti, almeno negli atti. Venendo alla politica, come detto, è il giorno del grande, come dire, del grande freddo, nel senso tutto congelato, tutto le emozioni ferme, sembra che si sia tutto sprofondati in un crepaccio di immobilismo, perché l'idea è: abbiamo scherzato? Berlusconi ieri ha convocato una conferenza stampa abbastanza sorpresa, non si vota. Questo a pagina 8 di Libero. Non si vota, e poi Berlusconi ha detto: io non ho mai detto, non ho mai minacciato le elezioni. Future Libertà saranno sicuramente fedeli. Tanto che anche il Sole 24 Ore, oggi in Consiglio dei Ministri un decreto unico per completare l'attuazione del federalismo, cioè avanti col federalismo, più leva fiscale alle regioni. Tra l'altro, questo voglio ricordare, sarà il tema di 9 in punto, oggi ci sarà Gianfranco Fabi a condurre 9 in punto, anziché il nostro Oscar Giannino, più leva fiscale alle regioni. Si parla di federalismo, avanti con il federalismo. Berlusconi ha detto: faremo dei consigli dei ministri per monitorare i 5 punti, il primo proprio oggi, il federalismo ci sarà entro marzo. E allora che dobbiamo fare? Dobbiamo affidarci, come al solito, ai nostri retroscenisti della politica, a capire cosa c'è dietro questa frenata brusca. Beh, secondo Marco Galluzzo sul Corriere della Sera, il cambio di rotta è dettato dall'incubo del governo tecnico. Pagina 5 del Corriere: la campagna militare al momento è finita. Fini annuncia ma non forma il partito. Berlusconi si ferma, ascolta Gianni Letta, sgombra il campo da tutti i falchi che ha inseguito in questi mesi, accetta di portare le lancette all'indietro. La campagna militare potrebbe riprendere in qualsiasi momento, certo, ma non ora, non nelle prossime settimane. Una spiegazione la offre a sorpresa proprio il Premier. Il governo tecnico è un incubo reale, altro che scommessa di sinistra, di una sinistra disperata o di chi interpreta male la Costituzione. In pubblico Berlusconi usa le stesse parole con cui per giorni nelle ultime settimane vari esponenti del PDL hanno provato a convincerlo del pericolo. 60 posti di governo da offrire anche a chi non ha voglia di urne. Il Giornale la vede più o meno così, in prima pagina. Il Giornale: Berlusconi e Bossi sfida Fini, questo è il titolo. Alessandro Sallusti, il direttore: a pochi centimetri dal precipizio prevale la paura del vuoto. Ecco, la paura. Sotto vuoto, al vuoto ci sono le elezioni anticipate e nessuno pare avere voglia di buttarsi senza un paracadute più che sicuro. Così nel giro di poche ore l'aria cambia direzione, i toni si attenuano, gli eserciti restano schierati, ma i fucili si abbassano. Per il momento l'apparente tregua dentro la maggioranza, dopo giorni di polemiche, sembra più tattica che strategica. Insomma, un cavaliere di governo, come titola il Foglio. Secondo Repubblica, il cavaliere Berlusconi tratterebbe sul salvacondotto, cioè attraverso Gianni Letta chiederà garanzia a Gianfranco Fini sempre sulla questione della giustizia. Insomma, la politica ieri ha fatto registrare questo armistizio. Le armi rimangono in pugno ai duellanti, ma per ora vengono abbassate. C'è anche spazio per una polemica per l'annuncio di Berlusconi di mandare 10 milioni di copie di un libro dal titolo Due anni di governo, quello che il Fatto Quotidiano a pagina 6 in un'intera pagina titola L'ultimo libro dei sogni del Caimano, che verrà mandato a 10 milioni di famiglie, una macchina della propaganda così definita e portata avanti, ideata da Antonio Palmieri. Il titolo è Due anni di governo, contenuto in un cofanetto di plastica diviso in schede, ci accusa con la spiegazione di un provvedimento approvato dal governo in questi due anni, in tutto in carta patinata, foto a colori su sfondo azzurro, gigantografia di Silvio di quando aveva molti anni di meno. Il Fatto dice, la domanda è questa, ma chi paga il costo di queste copie, anche per la qualità della stampa, deve essere molto alto, e ci si chiede chi paga. E poi, insomma, sempre a chiedersi ma come, non si vota, ma questa, secondo il Fatto, sembra una chiara mossa che fa capire che siamo in periodo di campagna elettorale. Tanto è vero che il Fatto dice ancora: la macchina schiacciasassi elettorale PDellina affidata a Michela Vittoria Brambilla è stata riconvocata ieri un nuovo summit a Palazzo Grazioli con l'organizzatrice principale di questa macchina elettorale, i team della libertà. E allora, si vota o non si vota? Un giorno si vota, un altro giorno non si vota, chi lo sa? C'è da dire che per ora è finita con una bella e grande abbuffata in amicizia la vicenda del Porci i Romani e le repliche dei Romani, giustamente un pochino stizziti, che non l'hanno presa come una battuta ma si sono un po' incazzati. E allora ieri è andata in onda il grande pranzo leghisto romano o leghista romano, il grande pranzo centro nord con polente, paiate, sughi, lambrusco, ma anche vino di Frascati, tra Alemanno e Bossi protagonisti, il Bossi Alemanno Show, si celebra l'Italia al sugo. Bossi Alemanno Show, si celebra l'Italia al sugo. Aldo Cazzullo racconta: polenta per i leghisti, la coda alla vaccinara per i romani. Bossi Alemanno hanno degradato la polenta dal popolare al popolaresco, e così la coda alla vaccinara. Peggio della battutaccia di Bossi sui porci poteva essere solo questa mangiata in piazza davanti al Parlamento della Repubblica, con le due clac a invocare i capi, il popolo di Roma protolega romanesca accanto ai giovani padani, la società dei magnaccioni urlata sguaiatamente nei megafoni, il sosia di Maroni e poi i ristoratori, i deputati in cerca di visibilità, la Russa, Lorenzin, Pannella coi capelli lunghi, due senatori di pietristi con cartelli apocalittici tipo «Mentre voi banchettate i romani muoiono di fame», la Polverini che imbocca Bossi e poi attacca i rigatoni per i fotografi, «Preside, magni! A Polveri, magna un altro poco!» E infine una turpa parodia delle ultime parole di Fabrizio Quattrocchi, «Arenà, facce vedere come magna una romana!» Bossi si è sporcato di sugo, Rosi Mauro estrae un Kleenex e lo pulisce, mentre i giovani padani intonano cori di difesa del Gran Premio di Monza e del Lambrusco da preferirsi al Frascati. Ci sono pure gli antagonisti di sinistra, Umberto Pizzi, il fotografo storico di Dago Spia, che appare sinceramente indignato e dice, lo dice lui, stavolta abbiamo toccato il fondo. Ma per carità, ma non è una critica, ma le avete viste le immagini? C'è questa foto della Polverini con Bossi che spalanca la bocca e la Polverini che lo imbocca con un rigatone. Bossi Alemanno, la pace alla vaccinara. Anche per Mattia Feltri sulla Stampa. Anche il Messaggero, pranzo Alemanno Bossi con Roma pace fatta. Quella foto emblematica è quella proprio. Bossi che apre la bocca e la Polverini che infila un rigatone con sugo alla coda alla vaccinara. Battiato, ogni tanto Franco Battiato viene sentito, no? Come intellettuale, come osservatore un po' distaccato. Poi è un grande cantautore, quindi va bene così. Battiato sul Corriere parla della politica in un'intervista concessa a Paolo Di Stefano e dice così: quando sento le insane sparate di Bossi mi dico da che pulpito ci si arma di contumelie proprio mentre bisognerebbe disarmare l'universo. I tempi sono duri, anzi direi disgustosi. Non si è mai vista tanta distanza tra la politica e la gente. Mentre tra i politici saltano fuori scandali di ogni tipo, criminalità, corruzione, tantissimi cittadini continuano a lavorare, a tirare avanti con onestà. Quelli che amano gli slogan da imbonitori dicono: ma gli italiani ci hanno scelti. Certo, ma un momento, una parte di italiani vi ha votato, ma la maggior parte vi detesta. E sono quelli che lavorano e mandano avanti questo paese restando nell'ombra. Che cosa vede Battiato dal paradiso terrestre di Milo? Dove vive? Preferirei tenere spenta la TV, ma non si può rinunciare ai telegiornali. Vedo giornalisti che fingono di essere obiettivi, invece sono servi. I mass media hanno molta responsabilità in questo disastro. Non verificano più, affermano e poi smentiscono. Potrebbero benissimo saltare la gran parte delle notizie e farci riposare un po'. Insomma, un Battiato che dice tempi disgustosi. Per la verità, altri toni. Ma non si discosta molto il giornale in un commento di Massimiliano Parente: che caos la politica in TV. Più la guardi e meno capisci. Il mantra è questo: approfondiamo, approfondiremo, l'approfondimento. E però da Anno Zero, Ballarò, L'Infedele, Omnibus, Matrix, Porta a Porta, 8 e mezzo, In Onda, I Fuori Onda, dice Massimiliano Parente, non ne posso più, mi viene da vomitare. Almeno si parlasse davvero di politica. Si sparano dati, cifre, sondaggi, senza nessuna verifica oggettiva. Tanto nessuno viene mai smentito, tutto è opinione. Non esistono più fatti. Fuori piove, ma c'è anche il sole. Poi dice: i politici di destra sembrano andare in TV per legittima difesa, per difendersi dai politici di sinistra nelle trasmissioni di sinistra. Ciascuno può dichiarare la mattina Omnibus l'opposto di quanto dichiarerà la sera Ballarò, perché le cose cambiano velocemente in questi tempi e dunque un giorno si va alle elezioni e si approfondisce, il giorno dopo non più e si approfondisce, il giorno dopo di nuovo sì e si riapprofondisce e a forza di approfondire si sprofonda senza affondare mai da nessuna parte. Massimiliano Parente oggi sul Giornale. Oh, se ho dato il premio Camomilla, o meglio bromuro, al professor Claudio Moffa, che dice l'olocausto non esiste, no, poi insomma, no, non è che non ha detto non esiste, contesta le cifre, 6 milioni di ebrei uccisi, cos'è? La cabala, un termine che ricorda la cabala, e poi si può dire come battuta al bar. Progettare, sentite questa, che dobbiamo dare ai giudici che per carità hanno applicato la legge, questo è un altro solito mantra. Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera: progettare attentati della Jihad non è reato. Non è reato. La sentenza la racconta solo il Corriere, che assolve due marocchini accusati di concorso esterno all'Al-Qaeda. Il tema è questo: quanto deve essere anticipata affinché sia efficace in chiave anti-attentati, ma nel contempo non sia liberticida la soglia dell'intervento repressivo antiterrorismo? È questo che si è chiesto la Corte d'Assise a Monza, nella quale due cittadini marocchini che possedevano ed entusiasticamente commentavano materiale scaricato da internet inneggiante alla guerra santa e poi nelle loro telefonate parlavano, vagheggiavano di far saltare una caserma a Giussano dei carabinieri o esplodere le auto del supermercato Esselunga di Lissone, sono stati assolti. Motivazione? Gli imputati non hanno mai avuto contatti con persone sospettate di terrorismo, non hanno detenuto armi, non hanno fatto sopralluoghi, non hanno svolto alcuna attività preparatoria, non gli sono state trovate neppure le piantine degli obiettivi. Insomma, così, scherzavano al telefono: perché non facciamo saltare una bella caserma dei carabinieri a Giussano o ci facciamo esplodere nel parcheggio dell'Esselunga? Scaricavano da internet materiale inneggiante la guerra santa, ma si erano fermati lì e quindi avevano vagheggiato e non c'è alcun reato. Allora, ci fermiamo ricordando il tema del nostro sondaggio, il doping. Il doping, le parole del procuratore del CONI, Torri, molto, se volete, anche da uomo affranto, ha detto nel ciclismo sono tutti dopati, tanto vale liberalizzarlo. C'è un profluvio di reazioni, il doping ha fatto 13, tante sono le procure che indagano in Italia, per esempio l'apertura dello Sport del Corriere della Sera, un profluvio di dichiarazioni anche sdegnate, dire ora si dimetta, ma che ha detto, è impazzito, il doping fa malissimo, però ha lanciato un tema concreto. Ne parleremo alle 8.30, il tema del nostro sondaggio, votate su radio24.it, allora come non lasciarvi con un piccolo sorriso, Gene Gnocchi, oggi rompi pallone in prima pagina della Gazzetta dello Sport, ciclisti in sciopero dopo le accuse di doping, domani per protesta incroceranno le siringhe, IGR.